Sono un uomo e tu lo sai. Un uomo forse perso dentro i sogni suoi. E guardami negli occhi e chiedi quello che vorrai. Se amore che cercavi, amore avrai. E del futuro no, non c'è certezza, forse noi non ce l'avremo mai. Sono un uomo, e ora lo sai. Un uomo che non smetterà di perdersi ormai. E usa la mia forza e la mia pelle come meglio puoi. Gocce di sudore su questo amore mai. Ma intanto gioca con me, balla con me, ridi con me, ama davvero. Salta con me, ruba con me e ama davvero. Ma non voltarmi le spalle. Cosa c'entra ora, come, come finirà? Io non capisco quella rabbia in fondo agli occhi tuoi. Prendimi le mani e chiedi quello che non sai. Se amore che volevi, amore hai. E del futuro no, non c'è certezza, forse noi non ce l'avremo mai.